Bene, grazie davvero. Dopo una presentazione così, non so, adesso vi devo stupire con effetti speciali. Beh, vi dico una cosa, è vero, io non amo tanto le definizioni. Quando noi siamo abituati un po' nella nostra cultura a guardare le persone come categorie, quindi non mi riconosco in un prete di strada, anzi è una cosa che proprio non sopporto, perché i preti di strada chi sono? Preti, punto, non c'è, come i ragazzi cattivi, chi sono? I ragazzi devianti, bulli, delinquenti, chi sono? Ragazzi, punto. Ecco, allora già volevo proprio dirvi questo, che per pensare all'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dobbiamo forse uscire un po' dalle definizioni, dobbiamo uscire dalle categorie, perché ogni persona è unica, è originale, irripetibile, non ce n'è uno uguale all'altro. E allora le persone che incontro io nel carcere minorile, i ragazzi che incontro, è vero, sono autori di reato, potremmo definirli omicidi, potremmo definirli rapinatori, ladri, e invece bisogna guardarli col loro nome e cognome e guardarli come sono, ragazzi innanzitutto, persone. Allora cambia il tuo sguardo sulla società, sull'educazione, sulla Chiesa, su tante cose che invece a partire dalle definizioni rimangono sempre un po' pericolose. Allora, cosa faccio io? Beh, io sono arrivato al Beccaria 14 anni fa, il Beccaria è l'unico carcere minorile di Milano, della Lombardia, è uno dei 17 carceri minorili italiani. Ed è un luogo di detenzione, un vero e proprio carcere, con le sbarre alle finestre, con le porte blindate. Pensate che per raggiungere un ragazzo nelle celle mi si chiudono alle spalle almeno 10 porte blindate. Ed è sempre una emozione, ma anche insomma una sensazione pesante quella di entrare in un carcere minorile. Incontro ragazzi che sono tra i 14 e più di 20 anni, tutti ragazzi che hanno commesso un reato prima dei 18 anni, e l'incontro così come sono, con le loro storie, le loro famiglie, le loro situazioni. Il primo incontro 14 anni fa, sono arrivato in aiuto a Don Gino Rigoldi, ben più famoso di me. Lui è da 45 anni che fa il cappellano del Beccaria, e adesso ne ha 80, ma è ancora più in forma di me, quindi la prossima dovete invitare lui per forza. E quando sono arrivato al Beccaria la prima volta, dopo queste 10 porte blindate, ho incontrato il primo ragazzo. Si chiama, ve lo dico dopo come si chiama. Questo ragazzo, a lui mi presento e gli dico: guarda, io sono Don Claudio, sono il nuovo cappellano, sono un prete, tu come ti chiami? Risposta molto secca, perentoria: cazzi miei. Ecco, questa risposta che mi ha lasciato interdetto per qualche secondo, poi l'ho chiamato così per tutta la settimana, ma devo dire mi ha lasciato un po' perplesso, ho detto: dove sono finito? Eppure quel ragazzo mi ha aperto veramente lo sguardo, mi ha aiutato tantissimo da subito a capire tante cose importanti. Perché dopo qualche giorno questo ragazzo mi dice: scusa se ti ho detto queste cose l'altra volta, però a me, te lo dico subito, non mi interessa se sei un prete. A me interessa chi sei tu e se veramente ti interessa di me. E allora poi mi ha detto che si chiama Francesco. E ecco, questa risposta mi ha veramente colpito. Perché? Perché forse è vero, noi adulti spesse volte pensiamo che per poter comunicare con questi ragazzi, per poter entrare nella vita dei nostri figli, degli adolescenti, eccetera, basti il ruolo adulto, il genitore, l'insegnante, l'allenatore, il prete, le forze dell'ordine, basta, come dire, anche lì un'etichetta, e allora abbiamo le vie spianate. Non è così, almeno con i ragazzi che incontro io non è così. Tu puoi anche essere il prete, puoi anche essere il giudice, puoi anche essere il direttore del carcere. Il ruolo da solo non basta per garantirti la possibilità di entrare in comunione con quel ragazzo, per poter essere anche ascoltato o per poterlo ascoltare. Allora quel ragazzo mi ha aperto un mondo e io ho capito che se volevo entrare dentro questo mondo, secondo quanto il mio vescovo aveva deciso per me, dovevo lasciarmi anche un po' ferire da questo incontro. Cioè non potevo più contare sulle mie sicurezze di adulto, sulle mie esperienze pregresse, dovevo veramente mettermi in gioco. Con tutte le mie fragilità, le mie paure, perché non è che entri in un carcere, non c'ero mai entrato, e quindi non è che tutto fila via liscio. Allora, ferirsi vuol dire star lì con loro, magari stringere le mani e pensare dopo 2 secondi che quelle mani hanno ucciso, vuol dire ascoltare le loro storie, le loro narrazioni, entrare dentro la loro vita, fatta spesso di situazioni molto pesanti, perché ho scoperto una cosa che non si dice in giro, che i cosiddetti bulli in realtà sono ragazzi spesse volte vittime di bullismo. Io, tra tutti quelli che ho incontrato, cosiddetti bulli, che ne hanno fatte anche dei feroci, eppure quando poi ascolti dopo un po' di tempo le loro storie, quasi sempre, più della metà almeno, sono stati vittime di bullismo. Cioè sono ragazzi a loro volta fragili. Con questo non intendiamo allora giustificarli, oppure con un atteggiamento buonistico in qualche modo assolverli. No, commettono dei reati, fanno delle cose sbagliate, giustamente vanno in carcere. Però questo allora non vuol dire che ci devono rimanere e bisogna buttare via le chiavi. Ecco, io questo tipo di giustizialismo invece non lo capisco molto, no? Va molto di moda ultimamente, no? C'è questa idea anche dell'essere duri e puri, no? Anche nella religione, anche tanti cattolici che sono integerrimi. Sì, però poi ognuno di noi ha le fragilità, ognuno di noi ha i propri peccati, ognuno di noi ha le proprie situazioni difficili. Per cui non ti dico di capire, non ti dico di assolvere, di giustificare un ragazzo che commette reati, però di provare, sforzarti e cominciare a capire cosa c'è dietro, sì, è importante, almeno questo penso sia il mio ruolo, ma credo sia il ruolo di ogni educatore. L'educatore è uno che, come genitore, come insegnante, non può semplicemente giudicare al primo impatto, ma deve andare a fondo, deve scavare, deve capire che cos'è che c'è dentro e dietro questa storia, la storia di ogni ragazzo. E allora ho incontrato tanti ragazzi, ho in mente per esempio un ragazzo che avevo ucciso una ragazza purtroppo, insieme ad altri coetanei, un fatto che sconvolse l'Italia, era il mio primo anno di beccaria, e questo ragazzo aveva 14 anni, era il più piccolo di questo gruppo. C'era anche un trentenne in questo gruppo e con questo ragazzo io a mettermi in gioco ha significato star lì con lui. Non c'era verso di parlare di quanto fosse accaduto. Sono rimasto, si può dire, a giocare con lui a ping pong, a biliardino, a parlare di calcio per 3 anni e mezzo. Perché, questo lo dico anche a tanti genitori che sono qua, non è che puoi tu decidere, tu adulto, tu genitore, tu educatore, i tempi del cambiamento dei tuoi figli. Non puoi tu decidere quando un ragazzo deve cambiare. Devi solo saper attendere, saper aspettare, saper cogliere. Non è un'attesa passiva, eh? Ho sempre in mente la parabola del padre misericordioso. Anche il padre misericordioso della parabola vede questo figlio minore andare via e lo attende. Non è un'attesa passiva. È un mettersi in gioco e tenersi pronti. Ecco, a me è capitato così con questo ragazzo. 3 anni e mezzo, mi chiedevo ogni tanto, ma serve che io giochi a ping pong, a biliardino? Dico, alla fine cambierà qualcosa, lo aiuterò. Ecco, forse bisogna anche togliersi dalla mente che un educatore, un genitore, deve salvare la vita di qualcuno. Noi, anche se tuo figlio è un altro da te, non puoi pretendere o imporre un cambiamento, lo solo puoi proporre eventualmente. E allora con me è stato un po' così. Una volta però, quando questo ragazzo aveva 17 anni e mezzo, mi ferma la mamma di questo ragazzo e mi dice: oggi Don, per la prima volta mio figlio a bruciapelo mi ha domandato al colloquio in carcere: mamma, se quella sera ti avessi detto che ero stato io, cosa avresti fatto? E lei dice: io non sapevo cosa rispondergli, gli ho detto: guarda, ti sarei stato vicino, però ti avrei anche portato a costituirti alle forze dell'ordine. E il figlio dice alla mamma: «Grazie mamma» è la risposta che speravo di sentirmi dire. E dopo qualche giorno, anche a me, ha voluto improvvisamente raccontare per filo e per segno tutto l'omicidio. Un racconto spaventoso, ma era come se si volesse svuotare questo ragazzo. Ci ha messo 3 anni e mezzo e non è un caso che la prima persona a cui abbia raccontato questo fatto sia stata la mamma. Perché? Perché la mamma c'è sempre stata. Perché la mamma non ha mai perso un colloquio. Magari molti adulti di voi ricorderanno Erika e Omar. Io ho conosciuto Erika, quella ragazza che purtroppo a Novi Ligure ha ucciso la mamma e il fratellino di 12 anni, e questa ragazza è cambiata, oggi è una donna, è cambiata tanto, non solo perché si è laureata con 110 lode, ma perché è davvero cambiata tantissimo, si è trasformata. Ma a chi lo deve questo cambiamento? Beh, a se stessa anche, ma certamente a quel padre. Pensate che nella pianificazione tremenda di quell'omicidio doveva essere ucciso anche il padre. E il padre tornò tardi dal lavoro quella sera e quindi si salvò. Ebbene, nonostante il padre sapesse di queste intenzioni della figlia, il padre non è mai mancato a un incontro, a un colloquio in carcere. Non ha mai saltato per anni i colloqui con sua figlia. A volte andava da solo, a volte andava con la nonna. Comunque sia, devo dire, la presenza di un padre che magari non avrà visto subito grandi cambiamenti, ma un padre che ha saputo essere presenza, vicino, accanto a questa figlia. Ecco, io ammiro genitori così. Sono genitori che non solo mi commuovono, ma anche ammiro perché ci sono. E non è che ci sono solo se le cose vanno bene. Ci sono anche quando le cose sono tragiche. Anzi, soprattutto lì ci sono. Ecco, io ho imparato a conoscere tanti genitori che non mollano mai. E questi, devo dire, sono un esempio, un dono anche per me, ma credo per la società tutta. Come quella volta, per esempio, con un ragazzo, sempre che ha commesso omicidio, in carcere, un giorno mi dice: ti voglio leggere questa lettera. Dico: ti ascolto. E comincia a dirmi alcune frasi. E io me ne ricordo due. La prima è bellissima, è questa: non esistono i figli miei o i figli tuoi, esistono sempre i figli nostri. Beh, tenetevela, perché secondo me è una frase molto importante. Ma la seconda mi ha sconvolto: ho già perso un figlio, non ne voglio perdere un altro. Ho detto, ma scusa, chi ti scrive? È la mamma del ragazzo che ho ucciso. E questa lettera mi aiuta tantissimo a cambiare, a essere migliore. Quando sono in crisi vado a leggermi questa lettera. Pensa, Don, mi ha chiamato figlio, anche se io ho ucciso suo figlio. Ecco, cioè sono cose pazzesche quelle che vedo io. Voi direte, sì, cose molto rare. Cioè non esiste pensare a una madre così coraggiosa, così capace di perdono. Però vedete, siamo in una parrocchia, lo posso anche dire, a volte un cristianesimo vissuto così è certo che fa la differenza, certo che affascina, certo che allora fa pensare anche i giovani. Tant'è che quel ragazzo mi chiedeva spesso e mi diceva: ma com'è riuscita a perdonarmi? E io quella mamma non l'ho mai incontrata, se non dopo qualche anno in un incontro come questo, una sera in una parrocchia. Alla fine dell'incontro si presenta questa donna e mi dice: sa che sono io quella mamma lì. E io l'avevo proprio immaginata così, una donna completamente immersa nella sua comunità cristiana, una donna esemplare, ecco. Questo io penso che sia il bello di avere adulti così. Allora, è vero che io vi parlo di cose brutte, perché insomma ho parlato finora di omicidi, però io vorrei che anche cogliesse la parte bella di avere anche persone, esistono persone, genitori, adulti, che invece sanno, non dico andare oltre, ma sanno accogliere, raccogliere questi vissuti drammatici e volgerli al meglio. E questa donna per me è una mamma in tutti i sensi, perché è una madre che sa generare, ha generato un figlio, ma ha generato anche la vita di quel ragazzo che le ha strappato suo figlio. Perché quel ragazzo è cambiato soprattutto grazie a questo perdono, a questa riconciliazione di questa mamma. Ecco, la chiamano giustizia riconciliativa, qualcuno la chiama giustizia riparativa, fa miracoli, però arrivare a perdonare, capite che insomma non è da tutti. E la fede, secondo me, gioca un fattore decisivo in questo senso. Detto questo, adesso vi presento un ragazzo, forse siamo riusciti a trovare perfetto il video, un ragazzo che ho conosciuto quando aveva 17 anni, un ragazzo originario di un quartiere molto difficile di Milano che si chiama Quartoggiaro, un ragazzo che è arrivato in carcere per rapine in banca. E quando era in carcere, ai primi tempi, era molto spavaldo, al che gli ho chiesto, ma come mai sei così allegro, tutto sommato? E lui mi ha spiegato che il suo essere in carcere faceva curriculum. Ho detto, in che senso? Eh sì, perché nel mio quartiere, se tu sei uno che fa le rapine e poi vai anche in carcere, sei un boss. E allora col suo curriculum, segnato da queste rapine, l'ho conosciuto. E devo dire che è un ragazzo tra i più difficili che abbia mai incontrato. Adesso però ve lo faccio conoscere a 10 anni di distanza, attraverso un video. Allora andiamo, probabilmente sotto Associazione Kairos, nei video sotto c'è Daniel, andate giù, vedete la figura del Papa, di Papa Francesco. Questa è la testimonianza che davanti a Papa Francesco Daniel, questo ragazzo di Quartoggiaro, ha fatto in occasione del sinodo sui giovani, dei giovani. Ecco, ascoltiamolo. Cominciamo con un primo grande interrogativo. Quanto è difficile per un giovane ritrovare se stesso, la propria identità. Sono cresciuto a Quartoggiaro, un quartiere difficile di Milano, che molti chiamavano il Bronx, in un contesto in cui ciò che contava erano i soldi, l'immagine, il potere. Per stare al passo fin da giovanissimo ho cominciato a commettere reati, prima piccoli furti, poi rapine in banca. Per questo motivo sono stato arrestato. Mi chiamo Daniel Zaccaro, ho 26 anni e ho compiuto i miei 18 anni in una cella del carcere minorile Beccaria di Milano. Lì dentro non riuscivo ad accettare di dover condividere la cella con due ragazzi rom, un vero incubo. Ero ingestibile e violento, incattivito da un ambiente carcerario che percepivo solo come luogo punitivo. Ho preso diversi rapporti disciplinari e sono stato trasferito anche in altri istituti penali per minorenni, a Bologna, a Catania e a Bari. Al Beccaria, l'unico con cui riuscivo a comunicare era uno dei cappellani, che fuori coordinava anche una comunità d'accoglienza. Chiese al giudice di sorveglianza di poter andare a vivere lì e 2 anni dopo la richiesta mi fu concessa questa opportunità. Nella comunità mi sono sentito subito a casa, accolto con simpatia e fiducia. Dovevo rispettare delle regole, ma per la prima volta qualcuno credeva in me, nella mia capacità positiva di scelta, e mi chiamava ad assumere con coscienza le mie responsabilità. Finito di scontare la pena giuridica, tornai a casa, a Quartoggiaro. Mi sentivo pronto, cambiato, ma durai solo 6 mesi. Per un altro reato, questa volta si aprirono per me le porte di San Vittore, il carcere degli adulti. 6 mesi durissimi, durante i quali ho davvero toccato il fondo. L'incontro con una volontaria anziana mi ha aiutato ad affrontare i momenti più duri, rimettendomi anche in cuore il desiderio di studiare. Terminati 6 mesi, chiesi di nuovo di poter tornare in comunità. Non ero obbligato dalla legge, ma sentivo che avevo bisogno di un nuovo periodo di riflessione e di crescita. Il sacerdote accettò, e dopo 2 anni eccomi qui. Oggi vivo in comunità con un senegalese, un marocchino e un russo. Imparo molto dai condividere la vita con giovani di culture e religioni diverse dalle mie. Sono stato 4 anni incredibili, dove ho scoperto con stupore un altro me. Sono tornato a scuola, ho cambiato percorso di studio, terminando con la maturità alla scuola superiore, che avevo interrotto con l'arresto, 5 anni prima. Ora sto sostenendo gli esami del 3° anno all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nella facoltà di scienze della formazione. Sono anche in me molte domande di fede e oggi comprendo che per educare i giovani alla fede occorre innanzitutto permettere loro di ritrovare le domande perdute. Non è possibile alcun discernimento se stai sempre con chi ti somiglia. Oggi capisco che solo il confronto con il diverso da me mi aiuta a conoscere meglio e incoraggia scelte autentiche fuori e dentro la Chiesa. Nella fede, come nella vita, non si cresce mai da soli. E per stare insieme occorre mettere al centro il perdono. Non posso ancora dirmi un credente vero e proprio, però avverto sempre di più la bellezza del cristianesimo. E la proposta cristiana è bella perché è esigente, perché interpella seriamente la mia libertà e non mi propone facili scorciatoie per la felicità. Non dimenticatevi di noi durante questo sinodo, di quei giovani che per un misterioso bisogno della vita hanno conosciuto l'abbandono, il carcere, la solitudine. Noi, proprio per i nostri sbagli, per tutte le sofferenze provate e per l'esperienza di cambiamento che stiamo vivendo, possiamo essere un dono anche per altri giovani. Fateci incontrare un Vangelo vivo, che si esprima attraverso il volto di persone vere e felici, come quelle che ho incontrato io negli ultimi anni. Ringrazio Dio per la loro testimonianza silenziosa e quotidiana, che mi ha affascinato e attratto al bene e al bello. Grazie. Ecco. Questo è, diciamo, Daniel, è un cambiamento bello questo che ha fatto in tanti anni, certo non in 2 anni, 10. Adesso sta facendo gli ultimissimi esami all'università, si laurea, vuole fare una tesi che sta già iniziando a fare, a preparare, sul rapporto padre-figlio, soprattutto nelle figure di Ulisse e Telemaco. E credo non sia un caso anche questa scelta di questa tesi. La cosa bella è che va in tantissime scuole a parlare insieme al suo PM, cioè al giudice, al magistrato che lo aveva condannato all'epoca, e oggi fa anche l'educatore, nel senso che quale migliore educatore può essere uno che ha saputo affrontare, cambiare e vivere certe situazioni. Infatti lui capisce perfettamente i ragazzi che adesso ha in comunità. Ecco, allora, per dirvi che è possibile cambiare. Però arriviamo al dunque, come si può aiutare un ragazzo a cambiare, ad avere una bella vita, a sognare? Beh, Daniel, vivendo in quella cultura molto, come dire, monolitica, quella del suo quartiere, non poteva vedere fuori. Io dico sempre che per scegliere devi avere almeno 2 opzioni davanti, no? Se ne hai una sola, che scelta è? Lui aveva una sola scelta. Non con questo che giustifichiamo le sue rapine in banca, però certo, nato e cresciuto in quella cultura devastante di quartiere, non poteva che vedere solo quella prospettiva. Quando entrando in comunità e poi con l'università è riuscito a guardare oltre, allora ecco che ha cambiato sguardo, ha cambiato modo di pensare. Io mi ricordo una volta, era appena uscito dal carcere, da me in comunità, abbiamo incontrato Mara Maionchi, abbiamo fatto una piccola trasmissione dalla comunità con lei, e Daniel contestava Mara Maionchi, diceva: ma no, i soldi sono tutto, i soldi sono fondamentali, ma come fa? E lei diceva: ma no, io a 60 anni mi sono comprata la casa, cosa dici? Poi Mara Maionchi di solito è una che non si ferma alle parole educate, per cui gliel'ha detto in tutti i modi, no? E lui è stata una litigata in diretta, c'è ancora testimonianza su YouTube. Oggi Daniel dice: sì, i soldi sono importanti, ma prima viene tutt'altro. Vengono i rapporti con gli altri, viene la cultura, la bellezza. Ecco, allora, poter cambiare sguardo è possibile. Però, ecco, un ragazzo deve essere inserito dentro un contesto che stimoli, che dia, che faccia rispuntare le domande, come ha detto lui. Perché il rischio è che noi diamo troppe risposte come adulti. Invece, secondo me, per aiutare un ragazzo a cambiare, a sognare in grande, dobbiamo fare in modo che sia lui a porsi una domanda. Finché noi diamo risposte preconfezionate, un ragazzo non è detto che sia interessato. Ma quando tu aiuti un ragazzo a riflettere, a porsi le domande, lui le chiama le domande perdute, allora cambia tutto. Cambia tutto perché ognuno di noi, e anche i ragazzi cattivi cosiddetti, tutti abbiamo una coscienza, tutti abbiamo, come dire, un'intelligenza, tutti abbiamo un originario bene che da qualche parte basta in qualche modo attivare. E allora ecco, nel suo caso, la possibilità di tornare sui libri, di tornare a scuola, di vedere una prospettiva diversa, questo lo ha aiutato tanto. L'ha aiutato a far cosa? A porsi le domande. E a porsi anche le domande di fede. Pazzesco. Un ragazzo di quella cultura deviante come quella che c'era nel suo quartiere è arrivato a fare la cresima, ma a parte quello a fare scelte importanti fino alla partecipazione al sinodo, per dire, no? Ecco, e lui per esempio mi dice io ho incontrato Gesù Cristo nei miei peccati. Bellissima anche questa frase, no? Cioè vuol dire che tu dentro le esperienze negative, se accompagnato da qualcuno, puoi anche intravedere qualcosa di importante. Allora noi non dobbiamo, dico questo agli adulti, i genitori che sono qua, non dobbiamo pensare che dobbiamo tenere fuori le esperienze negative dai nostri figli. Voi direte, come? Bisogna proteggerli. E io vi dico, no, non bisogna proteggerli troppo. Devono anche poter sbagliare, devono anche poter sperimentare le conseguenze delle loro scelte. Se non scelgono mai, perché hanno davanti un'unica opzione, quella che date voi, non cresceranno, non potrà crescere una coscienza, non si faranno domande e magari saranno anche bravi e buoni, ma quanto durerà? Ecco, allora ho sperimentato in questi anni che ragazzi, magari un po' devianti, magari un po' problematici, quando però cominciano a pensare, si trasformano. E questo per dire a voi, non so se siete d'accordo, poi dialoghiamo un po' insieme, siamo disposti a perdere il controllo? Domanda difficilissima, eh? Io vi dico, i primi anni della comunità, 20 anni fa, avevo aperto queste comunità di accoglienza, all'inizio, il sabato sera per esempio, non dormivo proprio, come se fosse un genitore, no? Cioè, scappavano, oppure andavano in qualche locale, allora andavo a controllare dove erano, piuttosto li accompagnavo io, tornavo a casa alle 5:30 della mattina, perché non sapevo dove erano, eccetera, eccetera. Poi un giorno mi sono detto, vado a dormire. Punto, basta. Cioè, questa ansia del controllo, questa ansia del evitare che sbaglino. Se sbagliano, pagano. Si cresce anche così. Allora, a volte, ecco, io noto dai ragazzi, dai discorsi che i ragazzi del Beccaria mi fanno in carcere, noto che spesso e volentieri ci sono dietro di loro famiglie e genitori molto protettivi. Voi non pensiate che in carcere ci vanno solo quelli che hanno problemi o che hanno famiglie sfasciate. No, no, ci sono un sacco di ragazzi di buona famiglia, ma troppo buona, nel senso che veramente è un ipercontrollo, un'iperprotezione. Famiglie, io direi, affettivamente, come dire, possessive, presenti esageratamente, no? Ecco, cosa si genera questo troppa protezione, questo troppo affetto nella mente, nella psiche, nel cuore di questi ragazzi? L'idea che se i miei genitori mi vogliono così bene, io non posso deluderli, non posso sbagliare, perché sennò non sono all'altezza delle loro attese, del loro amore. E allora questo è un grande guaio, perché io ho incontrato ragazzi che poi arrivando in carcere si sentono, non vi dico come. E allora la cosa più terribile che un ragazzo per esempio mi dice, ma tanti me l'hanno ripetuto, mi dicono, Don, guarda, l'arresto, la perquisizione, la caserma, il carcere, le sbarre, niente al confronto degli occhi di mia madre quando l'ho vista la prima volta in carcere. Ecco perché il senso di vergogna, il senso di delusione è fortissimo ed è pericoloso. Allora, un po' vabbè è sano, però un po' ci dobbiamo chiedere, ma noi adulti progettiamo noi la vita dei nostri figli o lasciamo che siano i nostri figli a fare la loro vita, la loro strada? Cioè noi possiamo consigliarli, possiamo proporre cose molto belle, possiamo accompagnarli, ma non possiamo sempre proteggerli, sempre guidarli dove vogliamo noi. Non vi parlo poi di quei padri, perché anche questi sono racconti che ho ascoltato più volte, che nell'ambito sportivo ammazzano i figli. Ce n'è uno, per esempio, in comunità che era un bravissimo atleta in atletica leggera, nei 1500 metri, aveva dei tempi molto importanti a livello italiano. Il problema era che suo padre era l'allenatore. Cosa è successo? Tempo, un po' di anni, quando poi non sempre arrivava primo, basta, sto ragazzo è andato in tilt, non ha solo lasciato l'atletica, ha lasciato anche la famiglia. E questo è terribile, quando cioè le attese dei genitori si riversano sui figli, è terribile. C'è una cultura della prestazione che è terribile in Italia, a cominciare dalla scuola, ma anche nello sport, in tante attività. C'è una cultura della competizione, parliamo di scuole d'eccellenza, di lavori d'eccellenza, l'eccellenza. Sì, ma l'eccellenza cosa comporta? Che qualcuno stia sotto per essere tu sopra. E quindi creiamo degli squilibri a livello anche sociale terribili. Chi la paga? La pagano i ragazzi. Per esempio un ragazzo al Beccaria mi dice: Don, è inutile che ti sbatti per me, tanto ormai io sono un tossico. Dico: no, non mi fare questi discorsi perché proprio non mi convinci. Tu sei un ragazzo che ha usato le sostanze, non sei un tossico. E lui mi fa: vabbè, che differenza fa? Eh no, gli dico, se tu sei un tossico vuol dire che ti sei identificato col tuo problema, che pensi di essere un fallito, che non hai via d'uscita. Invece ricordati che sei innanzitutto un ragazzo, quindi aperto a infinite possibilità di bene, puoi fare tante belle cose ancora, no? E lui mi fa: boh, non mi hai convinto. Passano 2 settimane e un ragazzo dal fondo della cella dice: ho sfigato. Lui si gira e gli fa: no, io sono un ragazzo che ha sfiga. Ecco cosa aveva capito sto ragazzo, no? Però capite, cioè, per far ritrovare questa positività nella vita, questo sguardo positivo, poi ce ne vuole. Perché? Perché si sentono falliti. E un ragazzo a 16 anni come fa a sentirsi fallito? Allora dobbiamo interrogarci noi adulti quanto siamo a volte stigmatizzanti nel modo di giudicarli, di vederli. E poi dobbiamo anche capire quante cose ci aspettiamo, i risultati, i voti, le prestazioni. Ecco, forse bisognerebbe lasciarli un po' più liberi. Loro lo dicono, tutti, anche quelli che non vanno al Beccaria, ci stanno addosso. Ecco, forse hanno un po' ragione. Stiamo un po' meno addosso, che non vuol dire fregarsene, non vuol dire deresponsabilizzarsi, ma vuol dire avere il coraggio di vederli nascere a se stessi, compresi gli sbagli, comprese le situazioni anche dolorose. Per carità, si cresce nel dolore, ma voi avete mai pensato che un figlio non debba mai soffrire? Certo, uno cerca di evitarlo, ma io vi dico, la sofferenza fa parte della vita. Se uno non è educato fin da piccolo a questa realtà che è il dolore umano, cioè quando pensate che possa saperlo affrontare quando poi arriva? Ecco, allora questo per dirvi un po' cosa incontro io al Beccaria e un po' quello che ho cercato di capire in questi anni. Vi dico l'ultima cosa, poi dialoghiamo insieme, che la cosa bella è che appunto questi ragazzi possono cambiare. E vi dicevo anche nella fede, perché la fede, vedete, al Beccaria, in carcere, non è mai una cosa sconosciuta. Io ho fatto un po' di anni, 10 anni di parrocchia anche, nella pastorale giovanile, eccetera, quando ero giovane. E vi dico la verità, insomma, è sempre bello avere a che fare con i giovani, eccetera. Ma, non so, da noi in oratorio, sì, insomma, era un po' una vita di fede, un po' così, quella dei ragazzi. Venivano a confessarsi, sempre gli stessi peccati, sempre nello stesso ordine, sempre. Però, vabbè, al Beccaria no, al Beccaria non è che vengono tutti i giorni a confessarsi, ma quando vengono sono confessioni incredibili. Ma per dirvi, vi faccio un esempio, un pomeriggio di Pasqua, 2 ragazzi mi fermano, mi blindano, cioè mi chiudono dentro la cella con loro, armati, con la Bibbia in mano, e mi dicono: Don, Oggi tu non esci da sta cella finché non ci spieghi sta storia di questo qui che scappa dalla tomba e le guardie non si accorgono. Dico, vabbè, dico, all'inizio l'ho presa come una battuta, ho detto, vabbè, dai, volete scherzare. Per 2 ore e mezza mi hanno fatto 100.000 domande sulla risurrezione. Mi hanno chiesto, ma tu ci credi? Ma com'è possibile? Ma i Vangeli chi li ha scritti? Ma storicamente come si può spiegare questa cosa? Insomma, 2 ore e mezza di domande fitte, non su un corollario della fede, sul centro della fede, la Pasqua. E insomma, alla fine, come sappiamo fare noi preti, bene o male, un po', facciamo un po' di teologia spiccia, e me la son cavata, dopo 2 ore e mezza mi hanno liberato. Ma io mi ricorderò sempre quella sera, perché tornando a casa in comunità mi sono chiesto, ma io ci credo alla risurrezione? Perché vedete, un conto è quello che il cardinal Newman definiva come un assenso di fede nozionale, cioè qualcosa che impari, ti metti sulle spalle fin da quando sei piccolo, impari il catechismo e te lo porti dietro, no? Un conto, diceva il cardinal Newman, è l'assenso reale, cioè di tutte le cose che hai imparato a catechismo, di quello che hai sentito, poi in che cosa veramente credi? Ecco, io ho scoperto attraverso questi ragazzi più difficili che c'è invece una grande sete di trascendenza, c'è una grande sete di Dio, ma non più nelle forme convenzionali della religione. Cosa voglio dire? Non sono ragazzi che vanno a messa magari, non sono ragazzi che sono abituati ad una vita sacramentale di un certo tipo, ma sono ragazzi che comunque hanno dentro un vissuto di fede, che semplicemente va tirato fuori, va educato. La cosa mi sorprende perché uno dice, vabbè, ma ragazzi che fanno le rapine, immagina se pensano a Dio. E invece è proprio il contrario. Perché c'è una voglia, una ricerca, un desiderio. Poi loro mi spiegano anche perché. Perché mi dicono, quando poi crescono, quando cominciano a maturare, mi dicono, io ho sempre inseguito i bisogni, quelli immediati, quelli compulsivi, io volevo tutto e subito. Però ho capito in questi anni che questi bisogni non bastano alla mia felicità. Cioè non mi soddisfano. Tant'è vero che fatto un reato ne facevo subito un altro. Tanti sono recidivi. Perché? Perché anche se hai beccato un sacco di soldi con un furto, che ne so, ma non basta realizzarti, non ti dà felicità. Ti appaga nel momento, nell'immediato. Ecco, questo bisogno di andare al desiderio, di guardare più là, è qualcosa che c'è dentro questi ragazzi. E allora bisogna educarlo questo desiderio, bisogna farlo emergere. E allora vi dico che la fede ha un ruolo decisivo appunto in questo senso. Quindi educare la fede, dico a voi, per me, ma lo dico anche a me, non è tanto oggi educarli ad una pratica religiosa, ad una prassi. Anzi, non facciamo l'errore che forse hanno fatto con noi i nostri padri, ma li ringraziamo lo stesso, di far coincidere il cristianesimo con un'etica, come se il cristianesimo fosse solo fare o non fare. Ecco, questi ragazzi a me hanno dato uno sguardo diverso anche sulla fede. Mi hanno aiutato a capire che il cristianesimo è molto oltre, non è solo fare le cose giuste, non fare le cose sbagliate. Tante volte, anch'io, vedete, dicevo in oratorio, oh, fate i bravi, ma che frase è? Me ne sono reso conto dopo. Cioè, è una frase inutile, fate i bravi, ma il cristianesimo non è per fare i bravi. È per svegliarsi, è per essere contagiosi nella carità, è per agire in maniera importante, non è semplicemente fare i bravi. Tanto è vero che poi il rischio qual è oggi come oggi? Che poi uno se fa il bravo, cioè è corretto, non infrange la legge, ma se ne frega di tutti gli altri, viene considerato un cristiano. E no. È chiaro che quel cristianesimo lì non affascina nessuno. Ma perché un giovane dovrebbe lasciarsi affascinare da un cristianesimo dei bravi ragazzi? Allora, non basta che sei un bravo ragazzo, non basta che sei un bravo adulto, un bravo cristiano, ma il tuo cristianesimo dov'è che si vede? Perché i giovani hanno bisogno di vedere quel tipo di cristianesimo più concreto, quello di Gesù, che semplicemente non è che parlava e basta, agiva. Ecco, allora, questo è un po' quello che ho visto un po' attraverso questi ragazzi, e vi dico che è stata una grande sorpresa. Poi, per concludere, non è che ovviamente vivendo a fianco di questi ragazzi tutto vada bene, non è che ci sono solo i Daniel, ci sono anche ragazzi che in nome di quella ricerca interiore hanno poi veramente fatto degli sbagli tremendi. Uno di questi è un ragazzo che 4 anni fa, dopo aver vissuto con me 5 anni in comunità, è partito per l'ISIS. Ed è stato lui e un altro ragazzo, sono stati i più giovani jihadisti partiti dall'Italia. Recentemente le Iene hanno fatto un servizio dalla mia comunità per ripercorrere la storia di questo ragazzo. Perché? Perché dopo 4 anni questo ragazzo, mentre il primo purtroppo è già morto, invece questo è stato ritrovato vivo e si è consegnato alle forze curdo-americane e quindi è uscito, diciamo, dall'ISIS e chiede di tornare in Italia, cosa credo ormai sicuramente improbabile. Ma il servizio delle Iene, Giulio Golia, domandava a noi e domandava e domanda nel servizio che ne facciamo. Si chiama Monsef, potete trovare, mettete Monsef su internet, trovate un sacco di roba. La domanda è aperta. Ed è stato bellissimo questo servizio, vi dico la verità, non me l'aspettavo dalle Iene. Perché? Perché non dà delle risposte, apre delle domande. Per esempio, col microfono, Giulio Golia è venuto in comunità, ha chiesto a me, ai ragazzi che l'hanno conosciuto, ma cosa facciamo? Se Monsef tornasse, voi sareste disposti? E allora lì è stato bellissimo. Un ragazzo musulmano dice, no, se lui viene io vado via. Un ragazzo invece cristiano dice, no, io lo accoglierei anche qua sul divano, adesso. E l'altro dice, da noi i rischi si chiamano opportunità. Insomma, devo dirvi, io non so bene, certo, io come prete lo accoglierei subito. Però capisco che è una scelta molto complessa, difficile. Il mio cristianesimo mi direbbe, certo che lo accolgo. È come il figlio minore della parabola, che è andato, ha sperperato tutto, ha fatto cose inimmaginabili e poi per necessità, perché non pensiamo che il figlio minore sia tornato per chissà quali grandi desideri di ritrovare il padre, no, era in crisi, aveva fame e quindi è tornato. Allora la necessità è sempre una partenza, può sempre essere un'occasione. Ecco, io non penso di avere a che fare con ragazzi che vogliono cambiare subito. Io ho a che fare con ragazzi furbini, manipolatori, seduttivi, che per necessità, per convenienza, per interesse, si avvicinano a me pensando che avendo le comunità poi posso farli uscire dal carcere. Quindi quando entri in carcere, per esempio, è spettacolare. Allora vieni, don, ti offro da bere. No, vieni da me che ti offro io da bere. Tu sai che sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Dico, quanti ne hai conosciuti? Tu? Ecco, quindi per dire, sono seduttivi al massimo, no? Però si parte anche da lì, si parte anche da lì, cioè non ho bisogno di ritorni, di gratificazioni, io sto bene lo stesso, ma è importante partire da qualcosa. Allora anche con i nostri figli, con i ragazzi in genere, non è che bisogna star lì a fare il processo alle intenzioni. Si parte da dove sono, dalle situazioni che vivono, senza starli troppo a giudicare. Ecco, non so, sto ragazzo, vedete, all'ISIS ha fatto la sua esperienza, credo, violenta, drammatica, non lo so. Io avevo scritto un libro, una lettera, che è poi diventato un libro per lui, 2 anni fa, nella quale avevo ripercorso tutti i nostri 5 anni di vita comune, eccetera, no? E io, scrivendo questa lettera, ho proprio così pensato di capire questa cosa, che i fondamentalismi, non solo quello islamico, sono veramente molto vicini a noi. Questo ragazzo non è partito, secondo me, per ragioni politiche, religiose, no, è partito in cerca della propria identità. aveva bisogno di qualcuno, di una narrazione forte che rendesse bella la sua vita, almeno nelle intenzioni. Era un ragazzo che si era spaccato con le sostanze, era un ragazzo che non si era integrato, un ragazzo difficile, no? E ha trovato nell'Isis quell'ideale forte che ha dato a lui consistenza, uno scopo, un senso di vita, no? Ecco, chiaro che non lo giustifico, chiaro che io dico sempre in cerca di un padre ha trovato un padrone, però occhio anche ai nostri figli, perché i fondamentalismi, anche cattolici, sono veramente vicini a noi. Cioè, quando noi pensiamo che il mostro vada rinchiuso in cella per affermare la nostra bontà, ecco, lì siamo già vicini, eh? Quando pensiamo che la religione sia uno strumento per i puri e i duri, siamo lì vicini, eh? Ecco, allora, educare alla diversità, educare all'integrazione, all'intercultura, una sacca di termini che si usano, ma educare al confronto con l'altro da sé è fondamentale, è fondamentale. Io vivo in comunità con persone veramente diverse, di religioni diverse, di culture diverse, con tante storie diverse dalla mia, però è la ricchezza, il fatto di poterci raccontare, di poterci confrontare, dialogare. Ecco, questo è una ricchezza per loro, per me, per i miei collaboratori in comunità. Si cresce così, senza aver paura dell'altro, senza aver paura della diversità dell'altro. Ecco, quindi, secondo me, e concludo proprio, questo è un po' il punto. Riuscire a oltrepassare il muro delle paure. Non si educa con le paure. Si educa col coraggio di sfide anche a volte difficili. E sfide che non sai mai come possano anche finire. Per carità, io dico sempre questo, certo, io se avessi saputo che quello sarebbe andato all'Isis, forse non l'avrei accolto, no, io l'ho vissuta intensamente quella vita comune di 5 anni, poi è andata a finire così, ma poi, chi lo sa, magari ci rincontreremo, tutto è possibile, soprattutto perché tutto è possibile in colui che ci dà la forza, non è certamente nelle mie capacità, nelle mie possibilità quello di cambiare la vita delle persone, ecco. Quindi fidandomi di chi ci ha messo al mondo, per me è importante saper vivere attimo per attimo, situazione per situazione, ogni incontro, sapendo che un incontro è sempre un in o un contro, e che anche il conflitto a volte è sano, ci vuole anche tra le generazioni. Basta, io direi a questo punto che possiamo magari dialogare un po' insieme, se avete vostre riflessioni oppure domande. Ecco, qui ho un microfono che è a disposizione vostro. Ecco, Beris, finché mi avvicino a mio cugino, faccio anch'io una domanda, così, perché mi interessava. Se magari puoi tornare un attimo, poi quando hai parlato dell'attesa, ci vuole anni perché un figlio cambi. L'attesa attiva, cioè il genitore, l'educatore, ma parlo anche di situazioni di normalità. Ogni riferimento ai miei figli è puramente casuale, ma quando è un figlio che all'esterno è espansivo, in casa non parla mai e passa il tempo ed è sempre così. Cioè, se tornassi un po' su questo comportamento del genitore che non vede cambiamenti, cosa vuol dire essere in attesa attiva? Ecco, questo più o meno. E attesa poi attiva, per esempio, è essere molto attenti nell'ascolto. I nostri figli, adolescenti intendo, parlano con le parole, ma molto di più col loro mondo corporeo, chiamiamolo così, con la loro gestualità, con il loro look, con la musica che ascoltano. Allora, attesa attiva vuol dire che magari ti senti impotente perché ti sfugge il figlio, non riesci a cambiarlo, ma in realtà tu lo stai accompagnando, per esempio. Anche a me capita con questi adolescenti, ascoltano il trap. Non so se sapete cos'è, una schifezza. No, scherzo. Sì, non mi piace a me. Però è questo genere di musica neanche musica posso definirlo, ma insomma, è chiaro che io faccio una gran fatica. E loro invece, Don, ascolta questa, Don, ascolta quest'altra. Cioè, per me era pesante. Anche perché ti verrebbe subito da dire, ecco, il genitore che vuole subito cambiare il figlio, no? Ti verrebbe dire, ma cosa ascolti? Ma ti rendi conto? Ma che frase è sta qua? Ma che cosa di? Ma che messaggi ti dà sta canzone? Allora, non puoi, come dire, solo demolire. Devi ascoltare. E ascoltare vuol dire, magari, io vi diceva il nostro amico che faccio anche musica, capite che nella cattedrale, nel Duomo di Milano, devo fare, che ne so, Palestrina, devo fare il Gregoriano, l'Ambrosiano, cioè un altro mondo musicale, e qua devo ascoltare il trap. Allora, è difficile, ma questa è un'attesa attiva. Cioè quella di non pregiudicare, cioè la possibilità di fare, in greco si direbbe epoché, cioè di sospendere il giudizio, di fermarlo, di non raggiungere subito le conclusioni. Prova a capire, per esempio, attraverso quella canzone, quella situazione, quel vestito, quel tatuaggio, quel piercing, non lo so, che cosa questo ragazzo, questo figlio vuole comunicare. Che cosa sta vivendo? Perché davvero il corpo parla. E poi dobbiamo dircelo, noi siamo una religione del corpo. L'incarnazione è insomma, un mistero fondamentale nel cristianesimo, no? Cioè, forse l'abbiamo fatta diventare troppo un'educazione basata sulle parole, sui discorsi, ma il cristianesimo è innanzitutto gesto, è farsi prossimo attraverso anche la vicinanza fisica. Pensate quante situazioni. Io, per esempio, in carcere, vi dico la verità, non è che posso sempre fare i discorsi, anzi, spesso e volentieri non li faccio i discorsi. Daniel mi diceva, dopo qualche anno, ma tu mi hai fregato, perché in carcere non mi hai parlato mai di Dio. Però poi mi ha detto una cosa bellissima. Però adesso me l'hai fatto vedere. Ecco, esagerata sta frase, no? Perché non è così facile. Però di questo hanno bisogno i ragazzi. Allora, attesa attiva vuol dire tu continua a fare, continua a vivere la tua vita con un senso, col sorriso, senza mai sempre lamentarti. In un'altra intervista alle Iene, Daniel dice: io non avevo adulti di riferimento perché? Perché gli adulti che incontravo alle medie, alle superiori, era tutta gente che si lamentava da mattino a sera. E quindi mi chiedevo, ma perché devo diventare così? Ecco, questa è una cosa interessante. Allora, attesa attiva, secondo me, vuol dire un po' questo, cioè vivi dando tu senso a quello che vivi. Non basta essere cristiano in maniera convenzionale se non sei convinto. E allora ogni situazione, ogni occasione, anche qualche sofferenza, diventa per te un kairos, cioè un tempo giusto, un momento favorevole per diventare più autentico, tu stesso. Io dico, sono grato a questi ragazzi, a questa esperienza che il mio vescovo mi ha fatto fare, perché in questi anni ho scoperto un altro me, cioè mi hanno aiutato a diventare un prete più credente e un uomo più maturo, so come dire. Ma perché? Perché sono entrato dentro questo ascolto, senza pregiudicare nulla, perché i ragazzi, nella loro semplicità, a volte invece nella loro complessità, però ti schiaffano in faccia tutto. La cosa bella che io ammiro nei miei ragazzi con cui vivo è che sono schietti. San Paolo la chiamerebbe parresia, dire le cose senza troppi fingimenti come facciamo noi adulti che non ci pigliamo mai la responsabilità e quindi parliamo dietro le spalle. No, i ragazzi con cui vivo io, questa è la mia fortuna, te le dicono in faccia le cose. Ecco, allora si tratta se poi le accogli, le ascolti quelle cose o se invece ti irrigidisci e non riesci più ad ascoltare. Per me questo vuol dire, poi tante altre cose, Poi. Beh, allora, innanzitutto, Don Claudio, volevo ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e aver condiviso il tuo tempo con noi. Ecco, volevo tornare su... Parzialmente hai dato un briciolo di risposta alla domanda che volevo farti, ed era legata alla sofferenza. Io penso che tu abbia avuto a che fare molto con la sofferenza. Noi stessi abbiamo a che fare con la sofferenza semplicemente perché viviamo. Ecco, volevo che ti concentrassi nella risposta, nel poterci descrivere qual è il valore che può generare la sofferenza. Ma vedete, sì, adesso vi ho parlato di cose belle e brutte, ma insomma è vero, la sofferenza fa parte della vita di ciascuno, e certamente quando sei a contatto con la sofferenza, sofferenza agita, sofferenza subita, perché poi vi ho detto che anche i ragazzi che fanno reato non è che non soffrano, e forse il loro soffrire è la causa poi di certe azioni, no? Però ecco, a contatto con la sofferenza degli altri è chiaro che poi guardi al tuo dolore, guardi anche alle tue sofferenze, no? La pietas cristiana, che cos'è fondamentalmente? Non è la pietà nel senso che è poi stato dato, no? In quell'accezione un po' di commiserazione dell'altro. No, la pietas cristiana è farsi carico delle sofferenze degli altri e farle diventare tue. E questo, vi dico la verità, in questo sono stato obbligato, cioè non, ecco, questo chiamiamolo ruolo di cappellano in carcere ti obbliga a questo, no? Ma soprattutto la vita in comunità, perché io condivido ogni giorno molti momenti con questi ragazzi che soffrono per mille motivi. E allora, come la vivi la sofferenza? Beh, io vi dico, ho chiamato le mie comunità Kairos. Kairos, vi ho detto, vuol dire tempo opportuno, il momento giusto, il favorevole. Perché? Perché sono proprio convinto che una ferita possa diventare anche una feritoia, la chiamiamo così. Cioè possa diventare davvero un'occasione, un momento propizio per ritrovare le domande perdute, per farsi qualche domanda importante, seria, sul senso della tua vita, per fermarti in un momento di disorientamento. Ecco, questo è importante. Se tu non parti dal tuo dolore, la vita diventa una commedia. I greci pensavano che in fondo il dolore fa parte della vita, e la vita la guardi un po' dall'esterno, il fato ci pensa lui a scombinare i piani, ma insomma la tua vita è un cronos, un eterno ciclico ritorno, sempre uguale. E invece Kairos è un'altra cosa, è sapere che quella sofferenza, quel tempo magari difficile, può diventare soggettivamente la tua occasione. E io ve l'ho detto portandovi alcuni esempi anche di quella mamma che si è vista uccidere un figlio, cioè quella sofferenza l'ha plasmata, la sofferenza del padre di Erika l'ha plasmato, e così anche per me. Però questo cosa volevo dirvi? Che dove si impara a vivere questa sofferenza? Io per il momento non ho trovato altra strategia se non guardare alla sofferenza di Gesù. Cioè, qual è il momento più alto, più credibile dell'amore di Gesù? La sua croce, il momento estremo della sua sofferenza, no? E ho anche guardato un po' quel verbo che mi ha sempre molto interrogato, no? Gesù consegnò il suo spirito, emise lo spirito, è il momento della sua morte, no? Il Vangelo lo descrive così, con un verbo in latino, tradere, e tradere vuol dire consegnò, diede la vita, la donò. Però tradere vuol dire anche tradire. Ecco, io penso che quell'amore lì, quella sofferenza lì sulla croce sia una possibilità per ciascuno di noi anche di saper dare un senso al dolore, di saper dare credibilità alla tua vita. Se tu non soffri con, non puoi certamente entrare in comunione con nessuno, perché i ragazzi non si convincono con le parole, almeno quelli che incontro io, si convincono se tu sei stato accanto loro nel momento della sofferenza. E così è stato per Gesù. Cioè, perché è credibile l'amore di Gesù? Perché è rimasto amore attaccato a quella croce, non è sceso. È rimasto amore in quel momento. Cioè, e allora, nonostante il tradimento, ecco, io penso che la sofferenza, un educatore, un genitore, quando la vive? Quando ti senti tradito nei tuoi affetti, nella tua missione di educatore, di genitore, no? Però ecco, attenzione, perché quella è una cosa pericolosa, perché quando un figlio ti frega o tu lo vivi come un tradimento, quel rapporto non andrà più avanti, si deteriorerà sempre di più. Se invece tu sai accogliere quella sofferenza, quel tradimento, e sai guardare oltre, allora anzi quel tradimento diventa l'occasione. Quanti ragazzi, per esempio, che riaccolgo magari per la terza, la quarta volta in comunità, mi dicono, ma come fai? Ma che pazienza hai? Ma a me non mi interessa la pazienza mia, mi interessa che loro vedano attraverso me e i miei collaboratori, gli educatori con me, che c'è una comunità che li vuole, che vuole bene loro, che li vuole includere nella società, che non si ferma al tradimento, allo sbaglio. Ecco, secondo me questo è un po'. La sofferenza è una grande opportunità, perché ci tocca tutti. E con questo a volte dico, ma certamente la sofferenza ci porta anche a scelte molto brutte, nella storia del pensiero è stato così. Molti ragazzi, perché fanno i reati? Perché non vogliono soffrire, pensano di eliminare, annullare magari qualche frustrazione facendo i reati, guadagnando in maniera illecita soldi, no? Ecco, poi capiscono che quella non è la strada. Allora la sofferenza non va evitata, ecco perché vi dicevo prima, non evitate la sofferenza ai vostri figli, fin da quando sono piccoli. Per esempio, perché adesso i miei primi ragazzi hanno i figli, i bambini piccoli, piccoli, piccoli. Allora, l'altra sera ho visto una scena incredibile. Ero a cena in una famiglia con un ragazzo ex della comunità e il bambino comincia a caragnare, pam, cellulare, video, cartoni animati, perfetto. Certo che posso capire, però attenzione, attenzione, perché se uno non incontra fin da subito il limite e davanti a un disagio, una sofferenza come può essere quella di caragnare, perché in quel momento è così, per quanto tu abbia 3 anni, però non è che la soluzione è sempre quella di accontentarli. Questo è pericolosissimo. Allora, io penso proprio questo, noi dobbiamo stare molto attenti fin da quando sono proprio piccoli a cosa introduciamo noi nella loro vita. Se ogni dolore, ogni frustrazione, ogni sofferenza viene anticipata, viene evitata dal genitore, quando inizieranno a imparare a vivere la sofferenza? E questo è un punto di domanda molto decisivo, direi. Buonasera, come educatrice quello che ho sempre trovato con tanta difficoltà è il rapporto con i genitori, soprattutto quando i genitori non condividono il progetto educativo. Quindi quando c'è questo scollamento tra ciò che avviene a scuola e ciò che avviene a casa, come ci si deve comportare? Perché non sempre si riesce a far capire ai genitori che la scuola non insegna solo i contenuti, non trasmette solo contenuti ma anche valori, no? E poi un'altra cosa, lei diceva 2 scelte, il ragazzo deve avere almeno 2 scelte. Cosa ne pensa? C'è stato un magistrato che ha fatto una proposta di allontanare i figli che vivono in un contesto sociale abbastanza brutto, oppure figli, come succede per i figli di drogati e così via. Cosa ne pensa lei? Beh, su questa seconda domanda bisognerebbe andare a conoscere bene la vicenda e capire. Io dico sempre che la famiglia è insostituibile, la famiglia, per quanto scassata sia, va accompagnata, va aiutata, va sorretta, sostenuta, ma non va eliminata. Anche i ragazzi che commettono reati, comunque sia, vengono aiutati a ritrovare un rapporto con le loro famiglie. Quindi magari stanno temporaneamente da me in comunità, ma noi siamo ben coscienti che primo nucleo d'origine è la famiglia. L'altra notte, per esempio, ci hanno portato un bambino di 11 anni, l'ho dovuto prendere perché, sebbene io abbia ragazzi più grandi e in misura penale, non si trovava in tutta Milano una famiglia, una comunità adatta a lui. Hanno arrestato i genitori, è chiaro, è rimasto da solo, per forza bisognava collocarlo. Comunque sia, per quanto abbia i genitori in carcere, è sempre figlio loro. Quindi io dico che certamente ci vuole qualcuno che faccia da mediazione quel rapporto, che cerchi di aiutare i genitori ad essere non solo genitori. Questa è una distinzione che me l'ha fatta capire Monsef, il ragazzo che è andato all'ISIS, quando a 14 anni, un giorno, appena arrivato in comunità, mi dice: sai Don, io ho avuto due genitori, ma non ho mai avuto un padre e una madre. E da lì ho capito che il mestiere di padre e madre è ben oltre l'essere genitori. Tu puoi mettere al mondo, puoi generare un figlio, ma se poi non lo educhi, se poi lo lasci a se stesso, tu non diventi padre e madre, o almeno un figlio non ti riconoscerà mai come padre e madre. Prendete la parabola del figlio il prodigo, no? Voi pensate che quel padre sia padre fin dall'inizio? No. All'inizio della parabola c'è proprio scritto così: un uomo aveva due figli. Non si dice che un padre, un uomo aveva due figli. In greco è anthropos tis. Tis vuol dire uno qualunque, un tale. Quando diventa padre e non solo genitore? Quando il figlio minore dice: tornerò da mio padre. Come dire, è retroattivo, non so come dire. Tu sei conosciuto e amato come padre e madre dopo. È un cammino, non si può essere solo genitori, bisogna diventare padre e madre. E chi ci fa diventare padre e madre? I nostri figli, se ci riconoscono, no? Come tali. Ecco, allora, la famiglia è insostituibile. A volte, purtroppo, io ho a che fare solo con genitori, cioè che ha messo nel mondo i figli. Per esempio, quando siamo in una parrocchia, io me lo dico apertamente, quando un genitore mi dice: si battezzerà lui quando sarà grande, questa frasetta tipica, no? Per me è una grande cavolata. Ma perché? Perché mi hanno insegnato gli stessi ragazzi del Beccaria che un ragazzo è come un libro bianco, una pagina bianca, se non ci scrivi tu per tempo ci scriverà qualcun altro. Allora, perché se tu credi, se tu comunque vivi la gioia cristiana, non devi trasmetterla ai tuoi figli, fin da subito? Poi certo saranno loro un domani a riconoscere o no, liberamente, questo dono, ma tu hai il dovere di trasmettere chi sei. Questo è essere padre e madre e non solo genitori. Ecco, allora, quindi la seconda domanda non saprei. Sulla prima, che era però... non condiviso tra famiglia e scuola. Sì, sì. E l'importante è che lo condivida il ragazzo, nel senso che a volte, come vi ho detto prima, i peggiori genitori, diciamocelo proprio, io ho capito dai ragazzi, sono quelli che hanno progetti sui figli. Sembrerà che sia sbagliato questo punto di vista, ma ve lo dico perché. Perché se tu imponi, per esempio, ho un ragazzo che viene a parlarmi e mi dice, e la mamma sempre che vuole fargli fare sto liceo. Ma è chiaro che il liceo è una tua proiezione, è un tuo desiderio, per carità. Non perché, per carità, uno in questo caso ha qualche disturbo, un DSA, eccetera, ma questo non vuol dire niente, perché un DSA può benissimo fare il liceo, se però trova degli insegnanti seri. Perché sennò diventa un calvario. Ecco, allora, è chiaro che come dire, ci vogliono delle condizioni, ci vogliono, devi vedere tutta la realtà, non solo i tuoi, le tue aspettative, le tue attese di genitore. Allora, come convincere? No, cioè non si può convincere, si può, ancora una volta, proporre, consigliare, accompagnare a una scelta, anche una famiglia. Non possiamo imporre, e se uno sbaglia e sceglie la scuola sbagliata, affronterà il disagio magari di non essere riuscito. Daniel, ragazzo che vi ho fatto vedere nel video, aveva scelto una scuola perché lui voleva fare una scuola di tipo letterario, un indirizzo letterario, eccetera. Suo padre all'epoca gli diceva: ma cosa fai a ste robe, che perdi tempo, tu hai bisogno di un lavoro per guadagnare. E quindi l'ha obbligato a iscriversi a una scuola tecnica, che lui ha odiato con tutto il suo cuore. Siccome era intelligente, ha fatto 3 anni prima di essere arrestato per le rapine in banca, e 3 anni li ha passati, non è che non li ha passati, sempre con la sufficienza. Quando dopo anni è ritornato a scuola, mi ha detto subito: Don, stavolta però io cambio indirizzo. Se persino ho fatto un'estate a studiare come un pazzo per fare gli esami integrativi, per passare a un liceo delle scienze umane. E da lì è iniziato tutto il suo percorso, che oggi lo sta portando alla laurea, no? Ecco, cioè, questo è anche sintomatico. Cioè, non è che tu devi obbligare un figlio a fare quello che vuoi tu. Devi essere così coraggioso, anche così capace di ascolto, per poter capire quali sono le caratteristiche di tuo figlio, per proporre a lui qualcosa che piaccia a lui. Perché se no, la fatica dello studio non la sorreggerà mai, quando non è la scelta sua. Ecco, quindi l'insegnante può far poco, può solo accompagnare una scelta. Non è poco. Se no, attenzione, perché quando si impone iniziano i conflitti scuola-famiglia. E io dico sempre: guardate che esiste, come dire, esistono i confini degli stati. C'è la diplomazia, cioè ogni ambito è uno stato, la scuola è uno stato, la famiglia è uno stato, il rapporto tra stati come si configura? Attraverso rapporti diplomatici, attraverso regole e confini ben chiari, per cui guai se uno invade lo spazio dell'altro. E in questa rete, chiamiamola così, in questo scambio, in questo dialogo, in questo intreccio, bisogna saper stare. E guai a quell'insegnante che invade lo spazio della famiglia, guai a quella famiglia che invade lo spazio della scuola. Attenzione, io ve lo dico da parte di alcune famiglie, è chiaro che avendo ragazzi difficili, molti genitori alle superiori non vanno più ai colloqui degli insegnanti. Perché? Molto semplice, mi dicono, perché si sentono male loro, si sentono giudicati, sanno che il figlio non va bene e quindi a un certo punto preferiscono andare. Allora, dall'altra parte mi dico io: ma l'insegnante ha chiaro che cos'è quel colloquio? Perché non è il tribunale, non è il momento del giudizio. Quel colloquio è un, come dire, uno scambio tra pari, innanzitutto, non tra un'autorità e qualcuno che sta in basso, ma tra persone che con diversità di ruolo ma pari dignità umana si aiutano per far decollare in maniera più positiva il percorso del figlio. Non è un tribunale, quindi attenzione, perché quando un insegnante va lì col registro e i voti, cioè, lì non sta facendo il suo lavoro. Esagero, però tanto per essere chiari, perché poi le ragioni stanno sempre molto dalla parte degli insegnanti, qualche volta anche da parte dei genitori, ma non impelaghiamoci in queste diatribe inutili. Certamente bisogna collaborare, cosa che noi sappiamo fare pochissimo. Nell'educazione purtroppo esistono i battitori liberi, gli individualisti, e da soli non si educa. Da soli non fai niente. Se io non avessi dei bravissimi collaboratori, bravissimi perché limitati, come lo sono io, non faremmo niente. bisogna collaborare, ci scanniamo piuttosto. Ma per quei ragazzi dobbiamo parlarci, dobbiamo collaborare concretamente, ecco. Se non c'è questa alleanza educativa non si fa nulla. Qualche altra domanda che non vedo mani? Ce n'è una là. Ce n'è in fondo. Ti odieranno tutti. Allora, io non sono un insegnante, ma sono un capo scout e anch'io ho confronto con le famiglie, ma soprattutto con i ragazzi, con i bambini più piccoli. Non so se hai presente bene come con i lupetti. E spesso ci siamo trovati, soprattutto negli ultimi anni, a confrontarci, a dover educare, anche giocare con dei bambini che hanno delle problematiche, delle fragilità, che non ci vengono dette dai genitori, ma magari come dici tu anche per paura di essere giudicati, non lo so, ma sarebbe un modo secondo me per tutelare il bambino o la bambina e per far sì che anche nelle nostre 2 ore e mezza alla settimana rendiamo la nostra proposta educativa il più efficace possibile. Un consiglio, se magari è successo anche a te una situazione del genere. Prova a ripetere un attimino, così su? Su come affrontare la situazione in cui ci sono dei bambini, un bambino o una bambina, che hanno delle difficoltà relazionali, delle fragilità, e però queste difficoltà non vengono comunicate dalla famiglia. Si scoprono dopo e magari sì, erano anche delle problematiche abbastanza importanti. Sì. Sì, fra l'altro questo è molto vero, perché molto spesso i genitori non vogliono riconoscere alcuni problemi. Penso per esempio quando bisogna comunicare, soprattutto da parte della scuola, ma fin dall'infanzia, che si sospettano problemi di disturbi vari, no? Molto spesso la famiglia si sottrae, non vuole affrontare anche la sofferenza di situazioni così. Quindi, come dire, io penso che l'educatore debba essere molto schietto, in maniera molto misericordiosa, in maniera molto empatica, ma bisogna essere veri. Non si può nascondere al genitore quello che uno vede, quello che è la realtà. Quindi penso che l'educatore, anche in ambito scout, ma in qualsiasi ambito, deve essere, come dire, una persona vera, una persona che giudica a partire da fatti conclamati. Quando questi fatti conclamati ci sono, allora bisogna comunicare. Comunicare vuol dire però stare molto attenti a come si comunica, perché bisogna capire se l'altro è in grado di accogliere quello che tu comunichi. E quando comunichi qualcosa che fa soffrire, non è mai facile comunicare certi fatti. Detto questo, cosa bisogna fare invece con i bambini fin da piccoli? Io penso ai miei ragazzi in comunità. Beh, innanzitutto io credo che sia fondamentale riscoprire il senso della comunitas, lo chiamo così. Voi sapete che la parola comunità è una parola molto bella, perché viene dal latino cum, che vuol dire insieme, munus, che vuol dire dono. È un dono reciproco. Ci scambiamo un dono, la comunità è il luogo dove ci si scambia i doni, dove l'uno è dono per l'altro. Ben diversa è la parola immunitas, che si usa invece moltissimo, no? L'immunità è proprio il contrario, è non dono. Ecco, io penso che quello che noi dobbiamo fare a qualsiasi età è educare i nostri ragazzi al senso della comunitas, cioè al senso dello stare insieme con, sapendo che anche i conflitti, anche le dinamiche di gruppo vanno accompagnati. Allora l'educatore deve sorvegliare molto, ma deve anche proprio entrare dentro quelle dinamiche, nei rapporti tra loro. Io per esempio ho fatto un'esperienza in questi anni un po' rischiosa, ma quella ha prodotto dei bellissimi risultati. Cioè, nella stessa comunità ho provato a mettere i cosiddetti bulli e alcuni vittime di bullismo. E veramente la cosa è andata alla grande. Perché? Perché poi Cioè, noi quando parliamo, sentiamo parlare di bullismo, per esempio, subito scatta, come dire, lo stigma per il bullo, tutto si concentra sul bullo, bisogna allontanarlo, a scuola viene espulso, eccetera. Occhio, signori, perché la vittima non è che è un ragazzo o una ragazza tranquillo, è problematica. Adesso magari vi scandalizzo, ma comunque sia, purtroppo, anche la vittima ha i propri problemi, a tal punto che è diventato vittima. Allora, non bisogna pensare che ci si debba concentrare solo su quel ragazzino, quella ragazzina, quel bambino, quella bambina. Bisogna educare il gruppo. Poi a me la parola gruppo piace poco, io dico educare la comunità, cioè far diventare un gruppo una comunità, è una cosa molto diversa. Un gruppo è un accostamento di individualità, la comunità è un intreccio di storie, è importante, è tutta un'altra cosa, un dono, no? Ecco, allora, aiutare un bambino, fin da piccolo una bambina, a capire che i tuoi problemi e i problemi dell'altro comunque si devono confrontare. E l'adulto, l'educatore, il capo scout, deve essere capace di mediare quel conflitto, di affrontare il problema non solo in un'unica prospettiva, quella del bambino deviante, diciamo così, ma in un'ottica trasversale di comunione. Allora sì che educhiamo la comunità, e anche il bisogno e la bellezza della comunitas. Se no, non facciamo altro che stigmatizzare sempre il problematico. E il problematico diventerà ancora più problematico. Perché? Perché si sente addosso lo sguardo di tutti. Allora, io dico, in un gruppo, in una comunità, anche in un gruppo scout, bisogna lavorare sul gruppo. Non solo sull'individualità, lavorare perché i rapporti tra loro siano costruttivi, siano belli, fecondi. Ecco, è un lavoraccio, però è fondamentale. E questo è un po' quello che io cerco di fare con tutti i giorni, anche con i ragazzi delle comunità. Buonasera, io sono una mamma. Sono onorata di conoscerla perché è una persona veramente molto profonda. Io dico solo una cosa, per quello che mi riguarda, avendo anche un figlio di 21 anni, ho cercato sempre di accettare quello che è e quello che sarà e quello che diventerà, nel senso che con molta imparzialità l'ho sempre solo ascoltato, ma ho sempre capito tutto nei suoi movimenti, dal corpo, dalla spiritualità, da quant'altro. Con imparzialità l'ho sempre ascoltato, l'ho consigliato e da solo è sempre arrivato lui a fare la prima riflessione. E mi fa piacere che lei abbia detto che questi ragazzi con rap e con tutta la loro musica di oggi sono comunque veri, e io di questo ne sono convinta, perché quando cantano le loro canzoni, per quanto possano sembrare volgari o palesi, tutto quello che volete, dicono semplicemente la verità dei giorni loro. Lasciamogli vivere il loro tempo, ma dobbiamo appunto lasciarglielo vivere, come ha detto lei, e io per questo la ringrazio moltissimo. E per quanto riguarda l'interiorità, io credo che come genitore il cuore che conosce adesso, tutto quello che ha conosciuto fino adesso, la ragione la comprenderà un domani. È come proprio quello che fa lei, se ha capito cosa intendo dire. E io come spiritualità sono molto interiore, io c'ho un Dio mio e questa è la mia forza, e quindi condivido appieno tutto quello che lei fa e sta facendo, e la ringrazio per i nostri ragazzi, perché è così che si deve fare. E tutto quello che è sempre stato è compito nostro farlo passare tendenzialmente o interiormente con molta leggerezza, cioè in un modo molto sottile, diciamo, fra virgolette. E quindi sono molto contenta di averla ascoltato e le faccio un grande in bocca al lupo e grazie per quello che sta facendo. Grazie. È vero, d'altra parte, guarda, anche i discepoli di Gesù, non è che Gesù quante volte ha detto perché non comprendete? Anche il migliore, Pietro, non è che ha capito subito, ha capito in quel pianto che è stato per lui la salvezza, forse, no? A differenza purtroppo di Giuda che invece non ha pianto, cioè purtroppo si è autodistrutto. C'era forse... Le famiglie e i singoli spesso sbagliano e volevo chiederti una tua opinione sulle radici anche degli errori che magari nascono in famiglia, in particolare sulla solitudine che spesso contraddistingue le famiglie, tante relazioni, tanti agganci, tante chat, tanti contatti, ma forse un senso di vuoto e di solitudine, di paura di fronte a problemi che sembrano anche più grandi di quello che sono, una paura che poi contagia magari anche le nostre scelte di genitori, di papà e mamme, e si trasmette ai figli e che diventa forse anche una paura di crescere, di affrontare la vita con coraggio, con senso positivo, buttandosi e anche accettando lo scotto degli errori. E dunque, sempre dalla mia prospettiva, quindi un po' parziale, perché è chiaro che le storie che incontro io sono sempre un po' al limite. Però una cosa che ho capito è che molte famiglie, penso soprattutto in contesti anche un po' più piccoli, non dico nella grande metropoli di Milano, ma quando andiamo in situazioni come la vostra o in piccole città, io noto che c'è questa paura del confronto con la socialità, con la comunità. E quindi il rischio è che prevalga quel senso di vergogna, per cui le cose in casa nostra si gestiscono privatamente. Per cui molto spesso la solitudine cresce. Perché? Perché un genitore non si fa aiutare, perché un genitore vuole risolvere tutte le cose all'interno del nucleo familiare. Questo è un po' un inganno, però anche capisco che questa cosa sia un po' inevitabile. Perché? Perché è tanto forte il giudizio, lo stigma sociale di fronte a tante situazioni. Pensate che ci sono a volte dei ragazzi che mi dicono in carcere: mio nonno, mia nonna non sa che sono qui. Dico la miseria. Sì, si hanno detto che sono partito per una vacanza di studio. Dico vabbè, spero anche duri poco, perché non so quanto potete tenere nascoste queste situazioni ai vostri parenti, ecco. Cioè a volte c'è proprio la paura di dover vergognarsi. Allora io dico, la solitudine non ti permette di uscire dalle situazioni più complicate. E allora qui, vabbè, lo dico in una comunità cristiana, ma questo vale per la comunità territoriale, civile, eccetera. Cioè, noi dobbiamo favorire invece una comunità che sia famiglia di famiglie. Che cos'è la comunità cristiana? Se non è quel luogo di riconciliazione in cui uno può, come se fosse in casa propria, raccontarsi anche nelle cose più difficili. Invece, purtroppo, bisogna riconoscerlo, anche le comunità cristiane sono luoghi di forti giudizi, per cui uno fa fatica a esternare una difficoltà, soprattutto in ambito educativo, perché molti genitori si sentono molto giudicati, non solo dalla scuola, ma anche proprio dalla comunità locale. Allora, questo sarebbe importante, uscire da questa logica e quindi dar vita all'interno delle comunità, anche cristiane, a momenti di ascolto. Io, per esempio, in comunità, da me, solo una volta al mese, non di più, però accolgo spontaneamente tutti i genitori che hanno problemi coi figli, e quindi mi si riempie la comunità di genitori da tutte le parti che non vengono ad ascoltare l'esperto. No, non faccio così. È un gruppo di mutuo aiuto, chiamiamolo così, no? Cioè un gruppo dove ci si confronta, noi come educatori che abbiamo gli stessi problemi, loro come genitori, e insieme cerchiamo di capirci qualcosa. Ecco, questo secondo me è l'atteggiamento più giusto, perché se c'è l'esperto c'è sempre quello che deve apprendere. Invece a volte basta con questi professionisti del disagio, io li chiamo così. Cioè, sempre c'è un piccolo problema, deve andare allo psicologo. Adesso non è che voglio togliere il lavoro agli psicologi, ma basta. Ma mandati dai pedagogisti, quelli non sappiamo neanche chi sono. No, cioè, noi siamo risorsa, la famiglia, si diceva prima, è risorsa. La comunità cristiana è risorsa, deve esserlo, sennò che comunità è? Allora, secondo me, per vincere la solitudine bisogna avere il coraggio di organizzare anche momenti di ascolto reciproco, di momenti di condivisione, semplici, non senza fare chissà quali percorsi terapeutici o psicologici o pedagogici. Cioè, ci si ascolta, la comunità cristiana può diventare questo ambito, no? E allora la solitudine si spezza, si vince, e come vi ho detto prima, la communitas diventa una risorsa. Quindi io penso che questo sia il punto centrale, poi ce ne sono mille altri, però avere il coraggio di confidarsi, di trovare alleanze. Oggi da soli non si arriva da nessuna parte. Anche noi, tante volte in comunità, ci prendono come gli esperti del settore. Ma va! Ma ci abbiamo, ogni giorno sei lì che ce ne succede una, due, tre, quattro. Cioè, ogni giorno, cioè, ho 50 ragazzi, non è che ogni giorno è un giorno nuovo. Lo sai che arrivi a sera e magari adesso troverò mille telefonate, perché ne succedono sempre tante. Ma allora cosa fai? Ti lasci sprofondare dal dire non ce la facciamo? No, cioè ci aiutiamo, perché non abbiamo le risposte pronte, non abbiamo le soluzioni facili, però abbiamo un desiderio di insieme provare a dar vita a un ragazzo. Per cui questo io credo sia la cosa più bella. E allora sì che nasce anche il piacere di stare insieme nella comunità. E allora uno si sente accolto, uno non si sente escluso. Molti genitori si auto-escludono, ma a volte vengono anche esclusi. Quindi so che a volte, io per esempio immagino, in tanti incontri, se uno parla con un certo tono della voce, un certo modo di fare, io immagino gli altri subito lo giudicano. È sempre così. Ma anche in una comunità, certi ragazzi, adesso è arrivato uno che è un rapper, anche lui fa le frasi pazzesche, un narcisista incredibile, sembra Sfera Ebbasta, ed è chiaro che gli altri non ce la fanno già più. Ma noi dobbiamo lavorare dentro quelle dinamiche lì. Non possiamo semplicemente dire escludiamolo, dimettiamolo. La parola dimissione nella mia comunità si usa pochissimo, pochissimo. A volte accompagnare un ragazzo vuol dire veramente fare un viaggio lungo e molto pieno di incognite. Però è una sfida da raccogliere. Così la comunità cristiana non si deve permettere di escludere nessuno, anche se è duro. Purtroppo penso che domani molti di noi vanno a lavorare, quindi magari dobbiamo chiudere. Io credo che oggi più che altre sere chi ha avuto torto sono gli assenti, hanno perso una gran bella occasione. Ringrazio Don Claudio, che è stata una sorpresa, non è stata una sorpresa perché ce l'aspettavamo, ma è stata credo per tutti una grande serata. Vi ringrazio ancora di essere stati qui con noi. Noi, come sapete, continuiamo ancora per tutta la settimana, quindi avrete tempo per mandarci malora prima o dopo. Speriamo di vedervi anche nelle prossime serate. Grazie ancora. Ricordo che l'offerta e l'uscita, appunto, avremo piacere di darla alla comunità Kairos. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ci rifocilliamo con più calma adesso.